Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, mondo dentro il balloon, che oggi tratta due grandi disegnatori che parlano di Medio Oriente. Il primo è Nashal Ali, palestinese, ha vissuto la Nakba, perso la casa, da allora è vissuto apolide, di stanza a Londra, è un grandissimo disegnatore, una delle grandi figure della cultura palestinese. Le sue vignette risalgono fino all'87, quando venne assassinato davanti alla sua tele proprio nella città londinese. Le sue opere, molte di profonda poesia, sollecitano riflessioni su questioni che vengono da lontano e purtroppo sono sempre attuali e come, e dimostrano che non tutto è iniziato il 7 ottobre, ma le scene degli anni 80 ricordano troppo le scene anche degli anni 2000. La Palestina, dunque, è il sogno di libertà del più grande vignetta palestinese, ma come tutti i grandi artisti è concentrato sulla Palestina, ma è un discorso che appare evidentemente chi guarda anche universale. Il secondo disegnatore che ci parla del Medio Oriente è Majid Bita, per il suo Autobus Incantato, un fumetto che parla di questo viaggio all'interno dell'Iran oppresso dall'integralismo degli Ayatollah. Quindi, subito dopo lo stacchetto musicale, parliamo con Raffaele Matar, critico d'arte libanese romano, che ben ci inquadra la figura di questo grande artista, Nashal Ali. Ali Raffaele Matar, che è un critico d'arte. Chi è questo artista palestinese? Si tratta del più grande vignettista palestinese, ma soprattutto del mondo arabo. Nashal Ali è nato nel 1936, ha vissuto la Nakba nel 48, è stato cacciato dalla Palestina e si è ritrovato poi tra gli anni 50 e 60 a esordire come vignettista, scoperto da Ghassan Kanafani, che è stato anche un'altra icona della letteratura palestinese e araba. E è stato pubblicato da veramente un sacco di giornali, quotidiani, testate arabe, ma anche da testate inglesi. E infatti a Londra nel 1987 è stato assassinato da ignoti per il suo impegno politico. In quanto vignettista, lui naturalmente pubblicava sui giornali tutte le vicende della sua contemporaneità, certo, tra gli anni 60 e 80, tra cui naturalmente dobbiamo considerare gli accordi di Camp David, la prima intifada tra l'86 e l'87, che poi insomma, è stato l'ultimo periodo della sua vita, infatti è stato assassinato a 50 anni. Nashal Ali non è soltanto un artista, un'icona culturale, ma è anche davvero il creatore del personaggio arabo più iconico della storia araba, che è Handala, questo personaggio iconico che rappresenta un bambino di spalle, senza capelli, con le mani messe dietro alle spalle. Handala è davvero conosciuto in tutto il mondo arabo da tutte le generazioni, anziani nei campi profughi, bambini di oggi, da Amman a Damasco a Beirut, anche nei paesi del Golfo, tutti conoscono Handala. Una figura quindi simbolica. Quindi che cosa rappresenta anche per il mondo arabo questo bambino? Rappresenta naturalmente l'impotenza non solo dei bambini, ma soprattutto l'impotenza del cittadino arabo davanti alle ingiustizie, tanto dell'occupazione israeliana quanto dei governi e dei regimi dittatoriali arabi, perché bisogna insomma anche sottolineare il fatto che Nashal Ali non era soltanto critico dell'occupazione, del genocidio che va avanti non solo da due anni, ma che va avanti dal 48, di questa sostituzione etnica e di questa pulizia etnica che è stata fatta e che continua ancora oggi, ma lui era un grande oppositore dei regimi arabi, delle dittature in tutto il mondo arabo. Lui di comunque faceva vignette e quindi che andavano di commento agli accadimenti contemporanei del momento. Lavorava all'estero però, certo, e per dei giornali. Come arriva la vignetta, diciamo, se sono solo vignette, ma forse è qualcosa anche di più, di questo artista nel mondo arabo? Ha iniziato già nel 61 a pubblicare su un giornale locale in Libano, spinto che si chiamava Al-Hurriya, la libertà, scoperto proprio da questo grandissimo scrittore palestinese che era Ghassan Kanafani, e da lì è stato notato da un sacco di altri, insomma, direttori di quotidiani panarabi che venivano pubblicati magari a Beirut come As-Safir, ma anche dal giornale Al-Qabas, che è un giornale kuwaitiano, giornali che esistono ancora oggi da più di 60-70 anni, e spesso, cioè, pubblicava in contemporanea anche su più testate ogni giorno, quindi realizzava più vignette ogni giorno per diverse testate. Bisogna anche considerare il fatto che il mondo arabo, parlando la stessa lingua, permette la circolazione delle stesse testate in più paesi, quindi si ritrova magari in Egitto qualcuno che legge As-Safir, che è libanese, o qualcuno che magari abita in Marocco e legge un giornale del Kuwait come Al-Qabas. E Najah Lali è stato veramente, ed è ancora oggi, un fardello inarrivabile per qualunque altro fumettista, artista o vignettista, perché è stato iconico. Dal punto di vista della matita, perché parliamo anche proprio della, non solo di ciò che, dei valori o dei messaggi o dei concetti che trasmette, ma come, quindi dal punto di vista proprio artistico, qual è il tratto essenziale, oppure ne ha più di uno? Come sono queste tavole? Lui disegnava sempre in bianco e nero con l'inchiostro, usava soltanto il nero, questo nero così preponderante, che è tratto, insomma, distintivo del suo stile, che quasi, cioè, è talmente preponderante questo nero, un po' a rappresentare l'amarezza, questo nero che straripa da queste vignette, dove sembra quasi che è sempre notte, sempre notte. Le striature, le ombre che ci sono su Andala o anche sui vari personaggi, lui usava anche altri personaggi che, insomma, degli archetipi ricorrenti, oltre ad Andala. Andala era proprio veramente una firma delle sue vignette, ma in queste vignette ricorrevano proprio il falegname, il contadino palestinese che è sempre un uomo un po', come dire, maciato, un po', come dire, sempre calvo, vissuto, esatto, insomma, quasi a dire che il simbolo, no, del poveretto che comunque, sì, lasciatelo la perdere, fatica. Infatti, ma anche invece disegnava, usava, insomma, tra questi archetipi anche, non so, i grassoni arabi, i simboli dei regimi, no, che si arricchiscono a scapito della gente. Per quegli anni credo che fosse davvero, al di là dello stile, al di là di, insomma, di questo stile a inchiostro, non colorava mai, anche le copertine che faceva per alcuni libri, ha fatto anche delle grafiche di copertina per alcuni poeti, tra cui Nizar Kabbani, non ha mai usato il colore, mai, lui ha sempre usato il nero, questo inchiostro. Possiamo definire un attivista, proprio un attivista anche antelitteram, diciamo, esatto. Quindi sempre impegnatissimo. Va bene, grazie, grazie. Grazie a voi. الأرض تنادي وتصرخ الحطام والغبار والأذرع الميت شرائح الإنسان غير مريحة لمن يراها محبوسين بين الحديد والحجر المقابر الجماعية في الهواء الطلق الفرصة الوحيدة أمامهم لتحرير أنفسهم هي أن يروي الآخرون قصتهم Vince facile un governo di assassini. Assassini in mimetica. Lancia distruzione dal cielo alla terra, nascosti dall'ipocrisia. Fino a... vince facile chi uccide con i tank. Levandoci poi acqua, bruciando dottori, ospedali e verità. Dove passa semina sangue, sotto le macerie. Fur salwahida hamamaum, le taheriri anfusi hum, ia aniaruil aharuna kussatam. Un altro vignettista che parla di Medio Oriente ma si sposta sul drammatico scenario del gennaio iraniano è la figura di Mahid Bita, iraniano esule, al suo secondo lavoro dopo il suo primo nato in Iran, ed è questa vicenda di un road movie, potremmo dirlo così se fosse un film, ma è un fumetto che tratta appunto di un viaggio in autobus di una serie di intellettuali, e in questo viaggio scorrono le immagini della sofferenza culturale di un paese sotto l'oppressione degli Ayatollah. Il frammento che prendiamo di Majid Bita è tratto dalla conferenza che lo stesso con Emilio Clementi ha tenuto per il suo libro L'autobus incantato, edizione Canicola del 2025, proprio alla Sala Borsa, il 14 gennaio scorso. Dopo lo stacchetto musicale sentiamo il suo intervento. Già nel primo libro io tante volte avevo raccontato la storia di un sacco di intellettuali che avevo letto da quando avevo cominciato a diventare un lettore. Avevo parlato di tutti i libri bruciati, messi in rogo di libri negli anni 80 e 90 in Iran, perché appartenevano agli autori, scrittori iraniani che avevano partecipato alla rivoluzione del 79. Oggi lo chiamiamo rivoluzione islamica, ma all'epoca non era una rivoluzione islamica. E in tutte le case c'erano i libri messi a fuoco, nascosti, perché appartenevano a questi gruppi, messi proibiti dopo la rivoluzione. Quindi, in poche parole, era pericoloso avere questi libri. E negli anni successivi, quando io ero un adolescente, negli anni 90, andavo io a leggere, a trovare questi libri messi a parte, e in cui trovavo gli autori che mi piacevano. Ho iniziato a conoscere gli autori iraniani o no, o non iraniani, e quando chiedevo del destino, della storia di questi autori iraniani che leggevo, avevo sempre problemi, perché il destino che mi raccontavano su di loro erano spesso le storie amare, miscolati con le storie di esilio, di incarcerazioni, di esecuzioni, di morte, di isolamento. Quindi già dall'inizio, come dicevo, da adolescente ero molto interessato alla storia di questi autori che mi hanno cambiato la vita, mi hanno fatto crescere, già da quegli anni 90. E poi nella postfazione avevo parlato molto dell'elemento dell'esilio, di destino di questi autori. E cosa succede? Il primo libro t'ha accolto veramente in una maniera desiderata. Poi passano 2 anni, stavamo parlando di un nuovo progetto, io stanco, anche Casa Editrice, anche Canicola stanca, di tanti argomenti che abbiamo avuto. Io inizio a raccontare un episodio, la storia dell'autobus di Armenia. Noi lo conosciamo così. L'incipit del libro, no? Ci troviamo a Teheran, sì, piove di notte, seguiamo delle persone, degli individui che ancora non conosciamo, che si ritrovano in una casa. Sono un gruppo, è un gruppo di scrittori, di intellettuali, e qualcuno propone, qualcuno ha avuto l'invito ad andare in Armenia per un festival, per una serie di conferenze. Decidono tra di loro, tutti accolgono la notizia e accettano l'invito. Come andiamo, come non andiamo, prendiamo l'aereo, no, l'aereo è troppo caro, partiamo in autobus. E da lì poi la storia prende una piega un po' più tragica. È tutta una storia vera, veramente, in questi anni dove questi intellettuali, che come ho detto leggevo dopo, stanno vivendo in quella città sotto controlli, sotto un clima proprio pieno di controlli, di occhi, di personaggi, di una repressione alta degli anni 90, ancora diversa rispetto agli anni successivi. E quindi loro, stanchi da queste condizioni, essendo così controllati, limitati, stufi da queste condizioni che vivono, decidono di accettare, accogliere questo invito, che già dall'inizio lo sapevano che non sarà un invito normale, che non sarà un viaggio normale, ma comunque, essendo stanchi, lo accettano. Hanno un po' di prove, capiscono che si può fare, ma comunque, ma andando più avanti, capiscono che eventualmente questo viaggio, come un po' anche avevano sentito, annusato, non è un viaggio normale. Capiscono di essere perseguitati ancora. Capiscono anche prima di partire c'erano storie, sentivano le notizie, sentivano le voci che dicevano di non andare. Sentivano persone che rifiutavano di partire, sentivano di quell'altro giornalista che, per esempio, di cui hanno sconfiscato il passaporto in modo che non possa partire. Quindi c'erano anche segnali negativi, ma loro volevano fare. Non erano eroi, non erano grandi personaggi che volevano combattere fino alla morte, ma comunque l'hanno accettato. La cosa è che tanti di noi lo facciamo quando ci sentiamo limitati. Partono. E piano piano capiscono, un po' si fermano, la storia diventa, in questo punto, diventa una storia del viaggio, che non può avere, anche se non ha a che fare con il politico, viene letto come una storia di un road story anche nel cinema. E capiscono, tutti i segnali diventano più potenti, più chiari, quando si fermano notano altre cose, durante il viaggio vedono una macchina che li persegue, che li segue. Incontrano i personaggi in un incidente stradale, personaggi armati. Alla fine arrivano a quel punto in cui capiscono che veramente c'è un'intenzione per ucciderli. Tutti insieme, 21 intellettuali saliti su un autobus che il regime aveva pianificato per buttarli in un precipizio in zona nord-ovest iraniano, dove ci sono le montagne freddolose, pieno di neve, c'è una gola famosa lì, che io ho preso anche il nome del libro un po' partendo dal nome di questa gola, Gardaneh Iran, che non so come l'ho chiamato, gola incantata, è proprio una zona molto simbolica per le persone che vivono in quella zona. Quindi, dicendo, ho iniziato a raccontare questa storia, ma di nuovo con un grande tentativo di non fare graphic journalism, non perché è un settore che non mi piace, ma perché è un settore che non posso fare, non sono capace di farlo. Vado a fare l'arte, tra virgolette, vado a magari disegnare quello che mi pare, lontano da questo mondo politico. A volte anche non sono consapevole di quello che faccio. Finisco questo pezzo un po' per intenzioni anche mentali che ho scrivendo questa storia. Ho detto, una volta parlando con l'editore, stavo dicendo, ma io non voglio solo fare la denuncia, ma loro mi hanno detto, ti rendi conto che stai facendo la denuncia, ma cosa pensi di quello che stai facendo? Quindi naturalmente mi viene, fa parte della mia storia, ma veramente è arrivato il punto in cui ho detto, nel libro mi sono autodefinito mezzo esiliato, perché ancora non volevo accettare quella cosa che mi sta accadendo. È la cosa che è accaduto ogni anno di più a tutti noi, non solo a me. Quindi la storia si ripete ancora, e vediamo adesso cosa accade. Quindi intenzioni mentali sono questi, ma stilisticamente anche. Avevo anche un'intenzione di cambiare il mio percorso, allontanandomi da quel meccanismo autobiografico, perché lo trovavo molto anche un po' egoista, un po' concentrato su me stesso, che racconto le cose, che sia veramente collettivo, che raccoglie la storia di tante persone, tanti iraniani nati in quegli anni 80, i bambini nati dopo la rivoluzione e in mezzo a quella guerra. Però dove vediamo l'autobus, colpisce che al posto, per esempio, dei nomi ci sono dei numeri, no, e solamente le silhouette dei personaggi che poi compaiono nel libro, e alla fine noi ritroviamo quasi come se fossero dei titoli di coda e sappiamo quale sarà la loro fine al termine della storia. Alcuni finiranno molto male, altri che già parlano durante, c'è un flash forward nel libro per cui noi li sentiamo raccontare di quella vicenda dai loro luoghi d'esilio, e c'è Los Angeles, c'è Istanbul, c'è la Francia, Parigi. Però in queste brevi note finali noi sappiamo di chi poi verrà, di chi morirà. Però alcuni di loro, che è la cosa che mi ha colpito di più, Majid, è il fatto che alcuni di loro nell'esilio smettono di essere artisti. Come se loro, non come se, ma effettivamente è così, la loro creatività in qualche maniera si inaridisce. Cosa avviene nell'esilio per cui ci si perde? Cioè, posso immaginare che non hai più il tuo contesto naturale, no? Di persone, la scena che prima esisteva a Teheran, poi non la ritrovi più nei vari paesi. Però qual è la cosa forse meno raccontata dell'esilio, che però è centrale nell'esilio, per cui ti prosciuga? Con la Scheherazade di Rimsky-Korsakov, un omaggio alla grandissima cultura storica della Persia, noi concludiamo questa trasmissione dedicata al fumetto mediorientale. Con questo è tutto. Per risentire la trasmissione, i siti sono sempre ilpioniere.org oppure radiocittafugico.it. Ciao a tutti.